sono Bubu. Ah, in FM, sì. Io non mi sono. Solo c'è gente in FM, capito? Se non arrivano le vendite, sto arrivando. Pari sempre in FM, sempre, Sempre in FM. Aspetta, continuo. Ma un passaggio più lungo. Ma non mi piace quella radio, non mi piace Marì. Boh, la sento strano, tutto troppo chiusa, capito? Adesso vado in questo passaggio. Ecco, adesso sei tu. C'è gente in FM su questa frequenza. E noi vanno da denti, proprio forti. Ma t'ho capito adesso, perché non è chiara adesso, più forte, però in questo passaggio ti sei avvicinato troppo magari la bocca al microfono. Ti ho detto che c'è gente su quella frequenza, in FM, che non arriva 9:20, 9:25, capito? Come si cosiccano sicuramente. Ti sopramodulano quelle, i tedeschi che ci sono in FM, da poc'anzi, arrivano fortissimi. Sì, ho girato poc'anzi, sta arrivando. Ogni canale, francesi, tedeschi, Macello c'è. Ma chi, settore, non si sono sentiti stasera, Non sento nessuno, Non lo so, dobbiamo fare cosa, Giovanni, perché non capisco più nulla qua. No, non è chiara adesso per la radio, Poco fa era più chiara, ma adesso non è chiara la radio. Che non è con la cosa, Giovanni, intanto, guarda, Non ti capisco anche io. Mari, ho il microfono. Cosa vuoi ti dica? No, perché non riesco a capirti. Forte, però non è chiara la radio, capito? E c'è lontano il microfono, Aspetta un attimo. Guarda in questo passaggio, più chiaro. Adesso ti sei abbassata, però è chiara, ma ti sei abbassato. Aspetta un attimo. Perché c'è propagazione in FM, capito? E per cui è un macello. Vabbè, dai, ci sentiamo domani se Dio vuole, dai. Io pure rimango in ascolto, dai, c'è tra Bacchisi, 8 ore, e poi chiudo, dai. Ci sentiamo, Maria, dai, buon proseguimento. Che giovedì domani, se in caso, e io qualcuno, dai, grazie in ascolto. Ok, ciao. Signor Bacchisio! Drommi! Uia! 2 di catta che non mi vedi in TV! Bobo! Ah, beh, ma male che tu ti risate da zonzo la sera, o no? Io non credo! Se credi la brava! Ah, di ragione io! Ah, gli altri la stai spassando allora la sera! Ah, non mai non so che c'è da nessun luogo! Quindi ero già meglio, ma nessuno rispondia! Ieri sera era occupato il canale, c'erano sempre loro fino a tardi, capito? Per cui ho detto, se magari saranno ascoltando anche loro, tu e Bacchisio, che non entrano per quello, perché c'erano sempre Giulio, c'era Giulio e Coso e Marco, Gianfranco. Ieri sera? No, che non c'era nessuno. Da voi che hanno indancato, prima del lutto hanno indancato. No? No, non ricordo. Non te ne ammetti, hai già fatto tu pure, là. Così che, vabbè, io stavo ascoltando perché c'era anche Gianni, però io stavo ascoltando e guardando la televisione, capito? Non ho sentito a voi, allora non sono entrato nemmeno a farmi due chiacchiere con loro. Anzi, io sono rientrato che erano le 8:20 e non sentivo nessuno, boh. C'erano loro fino a meno un quarto, mi sembra, Troppo hanno chiuso. Infatti ho fatto un paio di chiamate, non mi ha risposto nessuno, e allora ho chiuso. Ce n'era uno che metteva la porta alta ogni tanto, però no, non rispondevo. No, io sono acceso che alle 8:20 non c'era nessuno, ho provato a fare un paio di chiamate, però non ha risposto nessuno. Si vedeva già gettato fino all'otto. Chiamato a Bacchisi a vedere, ma non da davà. Bacchisi era quello mucchetto, era sotto all'albero, da tenere curraci a Isola. Ah, boh, allora non lo gioco. Non lo so, era un po' di giorni che non lo sento. Anch'io. Poc'anzi c'era Giulio in PMR, Giulio e Graziano, io sto facendo cose, non ho potuto entrare. Poi diceva Graziano che non lo sentiva, Giulio, invece Giulio qua arrivava fortissimo. Mi stavo facendo due spezzoni, mi hanno fatto, no? Stavo ascoltando, ma a me arrivava fortissimo Giulio, ma la Grazia dice che non lo sentiva, Graziano ci vede che lo sentiva, o era in una posizione che non lo ascoltavo, però io lo ascoltavo bene a Giulio, infatti dopo sono entrato e sto giù, ma stai arrivando bene tu, mi è strano che Graziano non ti sente. E allora adesso che la posizione di Graziano c'era qualche palazzo in mezzo, no? E non arriviare. O forse era nell'orto botanico e non arrivava a Graziano, niente, e poi da c'era in un punto dove non lo prendeva bene, capito? Ah, però sicuro, anche perché ci sono giorni che a Graziano non lo sento neanche io. Secondo dove si mette però, capito? Perché se con Gomino non è, secondo il punto che non arriva, capito? Ma se mette l'antenna grande già esce bene, capito? E poi basta attaccare quello più grande e invece stare col portatile, sarebbe diversa la questione. Ah, quello sì. Quello sì. Andare così, andare, vabbè, non ci disperiamo noi. Ma, purtroppo quella lì è una frequenza balorda, per cui in certi momenti non si capisce un tubo, non si sente, mentre che qua invece ci sentiamo tutti. Vabbè, con quella lì è che se riesci a aprire il ponte riesci ad arrivare in tutti i posti. Ci sono due o tre tedeschi, cazzo, ci sono da Parigi, già un'ora è, su 23, cazzo, arriva a Santiago 9:10, arrivavano, cazzo. E infatti è entrato Marino e non lo sentivo bene, al momento lo tappavano, cazzo. Ma in FM però? No, in AM, perché c'era loro in FM, per cui no, ci coprivano, capito? Poi quando la propagazione si mette arrivi più forte di che ci sono più lontano. Poi la femmina lo sai che aumenta di più, capito? La potenza è superiore della M, la FM. Per cui, però lo coprivano a Marino, perché erano fortissimi ed erano in FM loro, capito? Però la propagazione è troppo buona. Sì, la propagazione si anche tira bene, è buona, sì. Come li sentiamo noi, loro sentono a noi. Senz'altro così, ma io stavo ascoltando e ho sentito a Marino, ho chiamato e non ho risposto. Mi ho fermato adesso a farmi queste due spezzoni da 60 centimetri, da 60 con quel capo nuovo, capito? E pelle di quei buoni, ma i macchelitti. Così che dopo, domani gliele metto. Meglio così, almeno così il capo è buono. Andate così. Ehi, dai, vedi un po', attento, signor Marchisio, chissà cosa combinente, gatta. Da ieri e oggi, gatta, boh. Ieri ho provato a chiamarlo io, non da va. Ma sarà... Ho appoggiato la macchina, se ne siamo di qualcuno. No, ma è... Cazzo, le 8 meno 5, le 8 meno 5, visto che sarà anche a casa, senz'altro, Salvo che non ci abbia gente, oppure che sta facendo qualche cosa. Infatti. Giulia. Andare. È così, ieri oggi in campagna con Luca e abbiamo finito oggi, gatta, un tagliato c'è sole, gatta, un suo raccanto che si parava, gatta. Anche a Luca. La fa così. Caldo c'era, ma la sorte. Era caldo e poi ci piombava, cazza. Nonostante che c'erano gli alberi, però anche sotto gli alberi passavo con l'aria calda, cazza. Ma la sorte era sei calori, cazza. E te va pure domani a Manzano? Come? Non mi so pioggia per domani mattina. No, me lo dire, no. Ehi, a me ne sono stato, ma che a parte di numero, Orizzano. Orizzano e Cagliari, dai. Orizzano e Cagliari ha messo acqua forte, a Orizzano ci sono anche lampi. Così che, ma qua niente, qua non ci passa. Ha paura di passare qua. Ah no, ha messo pieno, sia qua che alla parte di Urbia e Coso. 22 e 29 gradi. No, è messo sia di mattina che di pomeriggio. Ma, mi sembra strano, Non ho visto la temperatura, non ho visto. Dopo già lo dicono, dai, per cui lo guardo bene e vediamo un po'. Magari avrebbero rinfrescato un pochettino, però mi pare che è per esempio la macchina di sopra, ahi no, che non si tocca mai. No, oggi mi sono di Antura e Bretagnina e... Io non vedo nessuna nuvola qua, da qua fino a parte davanti. Ah, ma ieri non mi si piace che fossi a me, così che domani sono a casa, per cui non animo il riposo. Io domani dovevo andare a vedere la Luffa, domani mattina, ma mi sa che si appoggiava, arrivederci. Non è che perché piova uno non può andare in nessun posto, no? E ci può andare ugualmente, salvo che non li farà l'aria. Se rimane nuvoloso non fa nulla, ma se fa zeva è brutto. Vabbè dai, Giovanni, ci sentiamo misociamente. Ok, ci sentiamo magari domani, se tutto coincide. Va benissimo, ok, ciao Giovanni. Ok, ci sentiamo domani, ciao, buon proseguimento.